Ad alta voce. Marco Foschi legge La Gloria di Giuseppe Berto. Camminammo 3 giorni e attraversando la Samaria non entrammo in nessun villaggio come ci era stato ordinato. Trovavamo da mangiare in qualche modo, erbe di campo e frutta selvatiche, e poi c'era sempre qualcuno, pastore o contadino o viandante, che per amore del Dio di Israele ci dava un uovo o un tozzo di pane, un pezzo di formaggio, qualche oliva. Essendo prossima la festa delle capanne, molta gente era in cammino verso Gerusalemme. La città sarebbe stata affollata e non era male per Simone e per me, che dovevamo guardarci dai romani e anche dalle guardie del tempio, possibilmente. Era probabile che avessero avuto l'ordine di tener d'occhio i Galilei per via di Gesù di Nazareth, però nessuno, ascoltando noi, avrebbe potuto giudicarci Galilei. Infatti io ero giudeo, non Galileo, e Simone, avendo abitato parecchi anni in Gerusalemme, al tempo in cui militava tra gli Zeloti, aveva perduto l'accento dei Galilei. Comunque, sapevamo dove andare per stare al sicuro. Era una taverna lungo la strada che conduceva al tempio. Il taverniere, che si chiamava Aser, era un uomo di grande saggezza. Non amava i romani e, potendolo senza suo rischio, aiutava gli zeloti che frequentavano la sua taverna. Fu contento di vederci. Era anche lui del parere che in Gerusalemme, per qualche giorno, con tutta quella gente in giro, potevamo rimanere senza rischi. Gli chiesi di Ariel, uno dei capi del movimento. Ariel non veniva più tanto spesso nella taverna, ci informò Aser. Anche lui aveva avuto fastidi coi romani e doveva stare guardingo se non voleva finire sul Golgota. Comunque, c'era modo d'avvertirlo del nostro arrivo. Ariel venne la sera dopo. Che noi fossimo al seguito di Gesù di Nazareth già lo sapeva, ed era curioso di conoscere anche le nostre idee sull'uomo e sul suo movimento. Dissi: se noi vogliamo scacciare i romani dal paese, dobbiamo avere il popolo dalla nostra parte, non solo nelle città, ma anche nelle campagne. Nessun movimento di liberazione può fare a meno del favore del popolo. Gesù di Nazareth ha lo straordinario potere di farsi seguire dalle masse. Aveva sul volto un'espressione di diffidenza mentre gli riferivo, e le mie parole non arrivavano a convincerlo. Infatti disse, aspro: «Il vostro Gesù è un imbecille. Predica l'amore, il perdono. Quando mai in Israele si è sentito che bisogna perdonare ai nemici? Il suo insegnamento va bene per le donne. In verità, ne tiene parecchie nel suo seguito». Io dissi: «Gesù è bello tra i figli dell'uomo, ha maestà nel volto e nel gesto, fascino nello sguardo e nella voce, e ciò che dice incanta. Lo seguono le donne e lo seguono gli uomini, con pari dedizione. Quanto al suo insegnamento, io penso che se dice di amarci e perdonarci gli uni gli altri, lo fa affinché il popolo sia unito. Vuole che siano sedati i rancori e rivalità che spesso dividono gli uomini, le famiglie, le tribù». Non era d'accordo. «Il suo insegnamento non è utile. Egli non tiene conto dell'unità nazionale, ha rapporti con samaritani e gentili, perfino coi romani. Bisogna perdonare anche ai romani?» Me l'ero chiesto anch'io più volte, mai osando interrogare direttamente il rabbi. Risposi: «Egli non nomina mai i romani». Ribatté ironico: «Già, forse per lui non esistono. Non c'è su Israele una dominazione di Roma, ma noi sappiamo che uno dei suoi prodigi egli l'ha compiuto in favore di un centurione romano. Era vero. Un giorno stavamo sulla via per Cafarnao e ci vedemmo venire incontro un ufficiale macedone di nascita ma militante nell'esercito di Roma e distaccato come consigliere presso il tetrarca Erode, il quale cercava proprio il rabbi, chiedendo aiuto perché un suo servo, che gli era molto caro, giaceva malato e soffriva terribilmente. Quell'ufficiale, benché pagano, aveva saputo infondere nella sua preghiera al rabbi tanta fede che il rabbi aveva guarito il servo immediatamente, senza nemmeno recarsi a casa sua, dove in verità non aveva messo piede. Spiegai questo ad Ariel e anche gli riferii quel che il rabbi aveva detto a noi in quella circostanza, ammonendoci con parole severe: molti verranno da Levante e da Ponente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma quelli che dovevano essere di casa nel regno saranno gettati fuori al buio a piangere e disperarsi. Ribatté con forza: è pazzo! Così scoraggia i nostri fratelli di Israele per favorire pagani e samaritani. Anche molti farisei e sadducei sono irritati con lui per questo. Sentivo, mentre parlava, che potevo essere con lui con la mia mente, non col mio cuore. Perciò risposi: non commettere errore. Lui dice d'essere venuto per i malati e non per i sani, e in termini politici questo significa cercare di farsi amico coloro che al momento dell'insurrezione potrebbero essere nemici. È una buona preparazione alla lotta. Non sei d'accordo? Scosse la testa. Sei cambiato, Giuda. Anche tu credi che Gesù di Nazareth sia l'unto promesso? Risposi: può darsi che non lo sia. Io non arrivo a credere, ma so senza incertezza che è dal tempo di Mosè che non appare in Israele un uomo tanto capace di farsi seguire dalle masse. Chiunque desideri la liberazione del popolo oggi deve accordarsi con lui. Meditò. Forse era tentato di credermi, ma poi rispose: sai quanti sono i visionari che di questi tempi vagano per la nostra terra di visionari? Sai quanti sono gli indemoniati e quanti quelli che bene o male riescono a cacciare i demoni? Ma non ho mai visto nessuno di loro cacciare un romano. Perciò Pilato permette che vivano e si moltiplichino. Sono innocui. Anzi, più il popolo sogna il regno dei cieli, più si rassegna alla sottomissione. Noi non sappiamo che farcene di Gesù di Nazareth. Sai dove si trova? La domanda mi turbò. Per quale mai ragione me la faceva? Risposi: non lo so, forse in Galilea. Noi l'abbiamo lasciato lì. Mi guardava tra scherno e compassione. Disse: è qui, a Gerusalemme. Se vuoi posso anche dirti in casa di chi si trova. Sta nascosto perché pensa che i giudei vogliano ucciderlo. Secondo me i giudei hanno tante altre cose più sensate da fare. Comunque può anche essere che finisca lapidato e può anche essere che qualcuno dei suoi seguaci faccia la stessa fine. Non capisco a che possa servire tutto questo rumore intorno ad un Galileo. C'è chi dice che è buono, altri che è un imbroglione. Può essere tutte e due le cose. So che hanno in animo di mandare delle guardie contro di lui. Era venuto a Gerusalemme, dunque, senza dirci nulla. Giovanni poi spiegò che nemmeno ai suoi fratelli aveva detto nulla, anzi li aveva ingannati a proposito delle sue intenzioni. Però se qualcosa aveva da temere dai suoi fratelli, che cosa aveva da temere da noi? Era a Gerusalemme, comunque, segretamente, ma non tanto segretamente che non lo sapessero gli zeloti e chissà quanti altri. Faceva così spesso. La voce della sua presenza doveva correre nascosta, incerta, affinché si creasse maggior attesa della sua apparizione. Ero certo che si sarebbe mostrato. Infatti all'improvviso, a metà della festa, apparve nel primo cortile del tempio. Noi accorremmo appena avuta notizia. Egli ci vide sicuramente, ma non diede a vedere di conoscerci e noi restammo mescolati ai giudei che accorrevano senza metterci in posa, ma pronti a soccorrerlo se ve ne fosse stato bisogno. Egli aspettò che la folla si facesse numerosa, poi calmo e sicuro, addirittura provocatorio, chiese ai giudei: «Perché cercate di uccidermi?» Nessuno rispose. La maggior parte d'essi non sapevano nemmeno chi fosse. Erano accorsi perché altri accorrevano. Era bello in volto e gentile nella persona, certamente non violento nonostante il piglio provocatorio. Perché mai avrebbero dovuto ucciderlo? Allora, non avendo risposta, egli cominciò a insegnare. «Io non sono venuto per conto mio, ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io vengo da lui ed è lui che mi ha inviato». La voce suonava affascinante. Egli faceva ogni sforzo affinché lo fosse, ma il discorso tutto sommato era oscuro, col risultato che incantava alcuni e irritava altri. Quelli rimasti incantati dicevano: «Se venisse l'unto potrebbe mai fare più miracoli di quanti ne ha fatti costui?» Ma gli altri, quelli che erano sfuggiti all'incantamento, affermavano che non era se non uno dei tanti impostori. Dove erano questi decantati miracoli? A Gerusalemme non ne aveva sicuramente compiuti, e quanto a quelli compiuti altrove, beato chi ci credeva. Storie che le donne raccontavano attorno al fuoco, nelle sere d'inverno, per far restare a bocca aperta i bambini. I miracoli, se uno li vuole, deve farseli da solo. Insomma, erano chi di un parere e chi di parere opposto, e si accaloravano nelle discussioni, stavano per scoppiare disordini. Alle autorità queste cose non piacevano, e ancor meno gli piacevano gli esaltati discorsi del profeta venuto da Nazareth. Perciò, d'accordo coi capi dei sacerdoti, mandarono delle guardie per arrestarlo, ma egli si allontanò in tempo. L'ultimo giorno, il più solenne della festa, riapparve nel tempio. Era molto teso. Forse era stato informato che in giro c'erano guardie mandate ad arrestarlo. Si collocò in un angolo del cortile e, stando in piedi, si mise a gridare: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Dall'intimo di chi crede in me, come ha detto la scrittura, scaturiranno fiumi d'acqua viva». Come sempre, le sue oscure parole dividevano, coinvolgevano in un'accettazione o in un rifiuto parimenti estremi. E tra i giudei c'era chi diceva che era un profeta o addirittura l'unto, ma la maggior parte era del parere che fosse un matto o uno dei soliti spiritati che dicevano cose incomprensibili. Però la sua voce, anche se le parole non si capivano, aveva un suono soave. Il suo atteggiamento era, almeno quel giorno, mansueto. Poteva anche essere fuori di senno, ma non pericoloso. Così nessuno osò mettergli le mani addosso, nemmeno le guardie mandate ad arrestarlo, le quali poi sebbero una buona dose di rimproveri da capi e farisei che erano in attesa dentro l'edificio. «Perché non l'avete portato?» Le guardie risposero: «Nessun uomo ha mai parlato così». Nella loro risposta era implicita la supposizione che il Galileo da arrestare fosse qualcosa di più di un uomo. E capi e farisei si irritarono. «Anche voi vi siete lasciati prendere dalle chiacchiere di questo Galileo vagabondo? Guardate noi, c'è forse uno solo di noi, capi e farisei, che abbia creduto in lui? Solo gli imbecilli, che non sanno niente della legge, si lasciano incantare». Le guardie, tuttavia, non tornarono fuori per prenderlo. Il giorno dopo, sebbene la festa fosse ormai terminata, all'alba egli era già nel primo cortile del tempio. E tutta la gente che arrivava andava ad affollarglisi intorno ed egli parlava loro soavemente. Stavano ad ascoltarlo sempre più incantati e pareva che poco importasse capire o non capire. Più tardi vennero alcuni dottori e farisei portandogli una donna sorpresa in adulterio. E gli dissero con falsa riverenza: «Rabbi, tu sembri conoscere la legge meglio di noi. Mosè in questi casi prescrive la lapidazione. Tu che ne dici?» Così gli chiesero per provocarlo, perché sapevano che gli predicava sempre l'amore e il perdono. Ora, se avesse risposto che bisognava perdonare, sarebbe stato facile metterlo sotto accusa per violazione della legge, mentre se avesse detto di condannare si sarebbe trovato in contraddizione con se stesso. Il rabbi sembrava alquanto imbarazzato e infatti, invece di rispondere, stando seduto com'era, si mise a far segni per terra con un dito. Quelli, tra stizziti e trionfanti, insistevano per avere una risposta, e allora egli sollevò su di loro la forza del suo sguardo, che penetrava le coscienze, e disse pianamente: «Quello di voi che è senza peccato, scagli la prima pietra». Questo soltanto disse. E riprese a tracciare sulla polvere i suoi incomprensibili segni, e quelli ad uno se ne andarono, finché la donna restò sola. Allora lui si alzò e le andò vicino. «Nessuno ti ha condannata?» «Nessuno, signore». «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più». La gente che aveva visto e udito tornò ad accalcarglisi intorno e quasi tutti gli erano favorevoli. Più tardi, quegli stessi dottori e farisei che se n'erano andati confusi tornarono ad avvicinarsi. Certo, avevano l'ordine di raccogliere testimonianze contro. Fu il rabbi a provocarli questa volta. Infatti smise il discorso che stava facendo circa le beatitudini. Spesso parlava di ciò con amore e chiarezza e, guardando fissi i suoi nemici, disse con voce ferma e alta perché udissero bene: «Io sono la luce del mondo». Era un'affermazione abbastanza grossa e quelli non potevano esimersi dal replicare. Si consultarono, poi uno disse: «Tu testimoni di te stesso da solo, non vale». Pianamente, con grande serietà, il rabbi ribatté: «Non sono solo. Con me c'è il Padre che mi ha mandato. Io testimonio di me stesso, ma anche il Padre che mi ha mandato mi rende testimonianza». Quelli si consultarono ancora e chiesero: «Dov'è tuo padre?» Il rabbi fece un gesto di sconforto e condanna della loro incapacità di sollevarsi dal materiale e contingente, e come sfidandoli parlò ancora più enigmaticamente. Voi non conoscete né me né il padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il padre mio. Si inoltrava ancor più per i suoi discorsi oscuri. Nemmeno io comprendevo il significato di quelle parole e mi chiedevo perché mai lo facesse. Voleva rimanere ambiguo per evitare l'arresto, e infatti nessuno lo arrestò, oppure al contrario forzare le cose per spingere la provocazione a limiti intollerabili. E in questo caso era solo per provare la propria forza e la loro, o per vedere di affrettare tempi che tardavano a maturare? Non si sa. Comunque, poiché nulla accadeva, su di lui scese l'inguaribile malinconia e fu chiaro che aveva pensieri di morte, ma non senza contrarietà per la loro incomprensione. Disse: «Io vado e voi mi cercherete. Dove io vado, voi non potete venire. Voi siete di quaggiù. Io sono. E se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati». Una volta detto questo, per lui il discorso era concluso. Mostrava di volersene andare, ma i suoi nemici, che avevano l'ordine di comprometterlo, gli si misero contro. «Non accettiamo parole vaghe. Tu dici io sono, ma che significa? Vuoi dirci chiaramente chi sei?» Gli apparve in volto un'espressione indignata. Mi aspettavo che si mettesse a gridare che lui era l'unto, il messia dei messia, il figlio vivente di Dio, e che chi non credeva in lui non credeva nemmeno nell'Eterno di Israele. Invece soffocò la collera, sollevò gli occhi al cielo e rispose: «Quando tutto sarà compiuto, allora riconoscerete che io sono, che non faccio nulla per conto mio, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, mai mi abbandona, perché io faccio sempre quello che gli è gradito». Benché il parlare non fosse del tutto chiaro, la voce era suadente e molti erano propensi a credergli. Ma egli pretendeva di più da coloro che volevano diventare i suoi seguaci. Disse: «Se rimarrete nella mia parola, sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e sarete liberati». Fu un errore. Quell'espressione «sarete liberi», che nell'intenzione del rabbi probabilmente doveva significare qualche altra cosa, li sconcertò e irritò. Essi discendevano da Abramo e non erano mai stati schiavi di nessuno. Glielo dissero in tono fermo. Anch'egli si irritò. «Lo so che discendete da Abramo, eppure cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi. Come io dico quel che ho visto presso il Padre, così anche voi agite secondo quanto avete udito dal Padre vostro». In questo modo li offendeva ed umiliava. Quale resa pretendeva? Essi erano disposti a credere, ma non a rinunciare alle credenze che già avevano. «Nostro padre è Abramo», dissero. Egli insistette: «Se foste figli d'Abramo, agireste come ha fatto Abramo. Voi invece cercate di uccidermi, di uccidere l'uomo che vi ha detto la verità, che ha udita da Dio. Abramo non ha agito così, Voi fate le opere del Padre vostro. Il dibattito si stava trasformando in una rissa. Dalla folla si gridava minacciosamente: «Non siamo bastardi! Abbiamo un padre solo, Dio!» Ormai non c'era più possibilità di mettere pace e nemmeno di portargli aiuto, perché invece di star zitto egli gridava infuriato: «Vostro padre è il diavolo. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Voi non le ascoltate perché non siete da Dio.» Quelli erano vieppiù inviperiti. E non era certo il momento di mettersi a spiegargli che il rabbi, quando perdeva la pazienza, usava con eccessiva precipitazione la parola diavolo. Non avrebbero ascoltato. Gridavano esasperati che era indemoniato, samaritano, matto, maniaco e via dicendo. Ma per quanto gridassero forte, egli a sua volta riuscì a gridare sopra le loro voci: «In verità vi dico, prima che fosse Abramo, io sono.» Allora quei giudei presero delle pietre per lapidarlo, ed egli dovette scapparsene dal tempio. Gli fu facile, perché era sabato e numerosa era la folla che andava e veniva. Marco Foschi ha letto La Gloria di Giuseppe Berto. Tutte le puntate sul sito e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.